Savonarola, il frate che spiumò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, abituato a che i popolani mangiassero poco integrale e vegetariano e che i signori mangiassero invece molto pane bianco e carne quasi tutti i giorni e fossero quindi affetti da obesità, gotta e diabete, tanto che queste malattie erano considerate infermità da ricchi, e lette invece da me, abituato a che i signori mangino poco integrale e vegetariano e che i popolani mangino invece molto pane bianco e carne quasi tutti i giorni, tanto che obesità, gotta e diabete sono oggi considerate malattie da poveracci. D'altra parte, chi non è savio, paziente e forte si lamenti di sé, non della sorte. Serio, capitolo 29, Karma Nero. I tumultuosi mutamenti degli anni passati avevano arrestato in Firenze il commercio e l'industria. Le somme pagate al re di Francia e le spese della guerra erano state esorbitanti e continue. Il credito pubblico era andato scemando in maniera che chi aveva un luogo di 100 fiorini sul Monte Comune non poteva venderlo più di 10. Un luogo del Monte Comune nel nostro linguaggio vorrebbe dire un'azione sul debito pubblico. Per 2 anni la signoria aveva quasi ogni mese radunato il consiglio per chiedere nuovi danari e mettere nuove imposte, ma ora le finanze della Repubblica e dei privati erano ad un tempo esauste. A tutto questo si aggiungeva anche la carestia, per il che le campagne erano crudelmente travagliate dalla fame e i contadini venivano a branchi in Firenze, donde l'antica legge li cacciava come forestieri, ma la nuova carità li riceveva invece come fratelli. Si tenne lunga discussione su questo proposito e vinse finalmente l'opinione dei seguaci del frate, i quali aprirono le loro case per ricoverarvi quel maggiore numero che potevano. In questo modo però avanzava maggiormente la povertà e i visi sparuti e stenti di quei contadini crescevano la generale tristezza, mentre che la peste già cominciava a portarne via qualcuno. Né con minore avversità procedevano le cose al campo di Pisa, che, sprovvisto di danari e di vettovaglie, assottigliava ogni giorno di uomini. Più volte si ebbe il dolore di vedere qualcuno dei capitani assoldati passare al nemico per paga migliore, giacché i pisani ricevevano ora sempre nuovi soccorsi per la gara venuta fra il Moro e i veneziani di tenere un piè fermo in quella città. E mentre che i fiorentini vedevano il nemico di fronte a loro crescere ogni giorno di forza e di numero, si trovavano da altri nemici combattuti alle spalle. I contadini, che per 2 anni avevano visto le campagne desolate dalla guerra, ora che sopravveniva la carestia erano per la fame divenuti furiosi e assai spesso, levandosi a tumulto, correvano ad assalire il campo in tanto numero e con tale impeto che bisognava con le armi combatterli più ore prima di poterli respingere. Profittando i pisani di un tale stato di cose, uscirono sotto il comando di Giampaolo Manfroni ad un assalto generale contro il nemico. Combattessi dall'una parte e dall'altra con valore, ma i fiorentini dovettero lasciare tutti i castelli che avevano sul piano e ritirarsi alle colline. Verso la metà del settembre essi furono una seconda volta assaliti e dovettero cedere anche le colline, sicché perderono così tutto quello che avevano acquistato. Ed ora il nemico, spingendosi oltre con maggiore animo, mirava a tagliare la comunicazione fra Livorno e Firenze, cosa che, quando fosse riuscita, sarebbe stata l'ultima rovina della Repubblica, giacché solo per quella via potevano venire i soccorsi tanto necessari del grano. Ma fra le molte sventure, niuna pareva sì grande, niuna rattristò così universalmente gli animi come la morte del prode e generoso cittadino Piero Capponi, seguita appunto in questi ultimi fatti il giorno 25 di settembre 1496. Egli si era messo ad assediare il castello di Soiana per riprenderlo al nemico, e siccome usava sempre far l'ufficio del soldato e del capitano, così, mentre che egli medesimo piantava le artiglierie sotto alle mura, venne da una palla nemica ferito e morto. Il giorno innanzi, vedendo rompersi la maggiore delle 2 artiglierie, ne aveva preso sinistro augurio e si era predetta la morte, scrivendone a frate Silvestro Maruffi, suo confessore, perché lo raccomandasse a Dio. È incredibile il terrore che la nuova di questo fatto sparse nella città e nel campo. I suoi soldati fuggirono quasi spaventati da Soiana e ne abbandonarono per sempre l'assedio. A Firenze furono subito ordinate le esequie splendidissime a spese della Repubblica e mai non s'era vista la morte d'un privato cittadino con tanto universale dolore compianta. Il suo corpo fu trasportato per Arno in una barca funebre. Lo deposero a Firenze nella sua casa presso al ponte a Santa Trinita e di qui vi fu portato a Santo Spirito, ove lo accompagnarono tutti i magistrati e una moltitudine innumerevole di cittadini. La chiesa splendeva per un grandissimo numero di doppieri e intorno ad essa v'erano quattro ordini di bandiere nei quali le insegne dei magistrati erano alternate con quelle della famiglia. In sulla bara venne con altissime lodi celebrata la vita e compianta la morte del valoroso soldato e del gran cittadino, che andò poi a riposare nella tomba medesima che il suo avolo Neri aveva fatta all'illustre bisavolo Gino Capponi. Ma ancora l'avversa fortuna non era stanca di opprimere la Repubblica. Gli alleati, vedendo in quanti pericoli ella versasse, la stringevano da tutti i lati per indurla a separarsi dall'amicizia di Francia ed entrare in quella lega che essi chiamavano santa. Non parlavano più di Piero de' Medici, sapendo l'odio grandissimo che v'era contro di lui. Promettevano invece di mantenere il governo libero e di aiutare a sottomettere Pisa. In contrario però minacciavano di venire alla guerra. Gli arrabbiati favorivano queste pretensioni, ma il popolo universalmente le avversava, perché sapeva bene quello non essere altro che un principio a mutare il governo e perché giudicava non potersi fare alcun assegnamento sulle parole della Lega, nella quale erano tante le volontà che mai non si veniva a capo di nulla. Il re Carlo d'altronde parlava nuovamente di tornare in Italia e mostrava già apparecchiarsi all'impresa, onde fu deliberato di restar sempre fermi nell'amicizia di Francia. Ma quella voce del ritorno dei francesi metteva nuovamente a soqquadro l'anima del Moro. Egli, che si vantava d'essere il moderatore d'Italia e che era infatti l'autore di tutti i disordini che vi seguivano, tremava ad ogni mutar di vento e temeva sempre di perdere la sua usurpata signoria. Eccolo adunque a meditar nuovi trattati e nuove alleanze, a chiamar nuovi stranieri. Esso era da qualche tempo in buona relazione con l'imperatore Massimiliano, che aveva in moglie una sua nipote e gli aveva concesso l'investitura del ducato di Milano qual feudo imperiale. Pensò adunque ad invitarlo a venire in Italia per pigliarvi la corona di ferro, stabilirvi l'autorità decaduta dell'impero, farsi arbitro nelle molte dissensioni dei vari stati e rimettervi l'ordine. Il nome dell'imperatore, egli pensava, avrebbe impedito la discesa dei francesi ed inoltre, trovandosi Massimiliano affatto provvisto ad uomini e danari, avrebbe dovuto stare alla discrezione di chi gliene forniva. E seppe il Moro così ben maneggiare la cosa che gli poté invitarlo in nome di tutta la Lega con la promessa di 40.000 ducati, dei quali 16.000 avrebbero pagato i veneziani, altrettanti il Moro stesso e 8.000 il Papa, nel caso però che l'imperatore fosse venuto con esercito capace di operar qualche effetto. Ma in questo mezzo si seppe che il re Carlo aveva deposto ogni pensiero di tornare in Italia. Egli aspettava ben presto di essere nuovamente padre e tutto pieno di questa sperata felicità abbandonava il pensiero d'Italia. Nel settembre nasceva infatti il Delfino, ma un mese di poi moriva, lasciando il re oppresso da tanta tristezza che egli non pensava neppure a soccorrere il piccolo resto dei suoi soldati che si trovavano nel regno di Napoli, sprovvisti di tutto, stretti da ogni lato e vicini a cadere nelle mani del nemico. Fu vario l'effetto che queste nuove produssero in Italia. A Firenze la morte del Delfino parve un altro avveramento delle profezie del Savonarola. La nuova poi che Carlo abbandonava il pensiero d'Italia raffreddò subito gli alleati nell'invito fatto all'imperatore e quasi ritiravano le loro promesse. Ma il Moro, sebbene solo, restava fermo nei suoi propositi, anzi, con più ardore spingeva l'imperatore a muoversi, avendo la speranza di poterlo maneggiare a suo arbitrio, ora che gli era solo ad aiutarlo. E mentre che Massimiliano si avvicinava, il Papa, preso animo per il nuovo stato di cose, veniva, senza metter tempo in mezzo, a vie di fatto contro la Repubblica. Le sue genti, unite a quelle dei Sanesi, erano sul ponte a Valiano e cercavano sforzare i confini fiorentini. Vennero però più volte respinte e finalmente furono costrette a darsi alla fuga e ricoverare in Montepulciano. Ma i fiorentini, sebbene vittoriosi, si erano per questi fatti trovati nella necessità di indebolire il campo di Pisa, mentre esso era nelle tristi condizioni più sopra descritte, cioè quando i movimenti dell'imperatore e del Moro facevano temere nuovi assalti da quel lato. L'imperatore infatti aveva già varcato le Alpi, ma egli veniva con sì piccolo numero di gente che, quasi vergognando di se stesso, evitava il passar per Milano, ove il duca gli aveva apparecchiato una grande accoglienza. Prese invece la via di Genova e di qui il giorno 8 di ottobre partiva con 6 galee veneziane ed alcuni legni genovesi. Sbarcava alla Spezia, donde per la via di terra entrò in Pisa con 100 cavalli e 1500 fanti. I pisani lo accolsero con festa grandissima, corsero subito al ponte dell'Arno e gettarono nel nel fiume la statua del re Carlo per mettervi invece quella dell'imperatore, e poi lo alloggiarono splendidamente. Essi erano pieni di speranza, avevano uomini e danari, buoni capitani e molte vettovaglie. Da ogni parte venivano sempre nuovi aiuti, ed ora che cercavano tirare in loro favore il nome e l'autorità dell'impero, pareva che anche in ciò volesse la fortuna secondarli. Ogni cosa riusciva invece avversa ai fiorentini, che avevano contraria la fortuna e gli uomini. Non di meno fu mirabile l'energia con la quale seppero aiutarsi in quelle avversità. Essi non perderono l'animo, ma raccolsero uomini, danari, vettovaglie, quante poterono, e mandarono ogni cosa al campo. Scrissero ai loro mercatanti in Francia perché aiutassero la patria con le loro private fortune, assoldassero uomini, mandassero grano, facessero come buoni cittadini ogni cosa che era in loro. Né si stancavano a questo, anzi, vedendo che Livorno era in quel momento divenuta la chiave del territorio toscano e che adesso i nemici avevano messo la mira, mandarono subito a fornirlo e fortificarlo così gagliardamente che quasi non pare credibile come in tanta strettezza si potessero fare tanti provvedimenti. Il primo pensiero della signoria però era quello di ricorrere al frate perché venisse a mettere animo in quel popolo scoraggiato da tanti pericoli e da tanti nemici riuniti, in quel popolo che sembrava non essere più capace di nulla senza l'aiuto delle sue prediche. E il Savonarola correva pronto e volenteroso all'opera, sebbene egli prevedesse che in quel momento appunto la corte di Roma avrebbe contro di lui cominciata una guerra assai più aspra e difficile.